Salva Danaio. Buongiorno, bentrovati a Salva Danaio in questa ultima giornata della settimana. Come abbiamo preannunciato nel nostro collegamento durante il GR, ci occuperemo di mercati per chiudere un po' questa settimana particolare sui mercati, ma anche per la politica. Se volete chiamarci per capire come difendere i vostri risparmi oppure per darci una vostra esperienza o avere dei consigli, potete farlo all'800 24 00 24 oppure via sms 349 238 6666. La settimana, dicevamo, che si è aperta con uno scenario preoccupante sul fronte finanziario, dopo che venerdì 7 dicembre, lo ricorderete ovviamente, Monti ha annunciato la decisione di chiudere la sua esperienza nel governo una volta ottenuto il via libera definitivo alla legge di stabilità. Lunedì lo spread è tornato a salire, superando i 350 punti base a Piazza Affari, ha chiuso in perdita del 2,2%, una perdita in realtà non un crollo, una perdita relativa, ma insomma si era parlato molto delle incertezze di questo periodo e cosa sarebbe potuto accadere. Nei giorni successivi la situazione sui mercati si è tranquillizzata, scongiurando le previsioni più pessimistiche. L'incertezza politica però resta e va ad aggiungersi ovviamente a una fase recessiva che la nostra economia sta attraversando, con le famiglie in difficoltà, sempre meno disponibili a risparmiare, a investire il proprio denaro, o meglio disponibili ma insomma non in grado di farlo. Salva Danaio quindi oggi fa il punto della situazione, cerchiamo di capire insomma le possibili soluzioni oppure i tetti sotto i quali possiamo trovare rifugio in questo momento di turbolenza da campagna elettorale. Siete piccoli risparmiatori? I prossimi mesi di campagna elettorale vi spaventano? Come pensate poi di comportarvi col vostro portafoglio? Ne parliamo con alcuni ospiti che abbiamo con noi per parlarne, appunto Lucilla Incorvati del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Poi abbiamo in collegamento, e li ringrazio, Massimo Gionso, consigliere delegato di CSO SIM, buongiorno. Buongiorno a lei. E Stefano Mac, gestore di Azimut, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, con voi e con gli ascoltatori cercheremo di capire insomma come, se ci dobbiamo preoccupare o meno. Intanto, per quello che riguarda oggi, i mercati sembrano tranquilli, ma vediamo nello specifico. Insomma, giornata in effetti abbastanza tranquilla sulle borse, FTSE MIB più 0,15%, FTSE Italo Share più 0,13%. In Europa Londra è intorno alla parità, così anche Parigi, Francoforte più 0,24%. Sul mercato milanese cosa è successo oggi? Beh, innanzitutto uno dei temi più importanti è stato quello del automobilistico, insomma delle immatricolazioni in Europa, che come sapete sono scese, mi riferisco ai dati di novembre, un po' in tutta Europa, male anche per Fiat, che il cui titolo è sceso questa mattina fino a toccare un calo del 6%, poi il titolo è stato sospeso, Lingotto ha commentato con un no comment alle voci che tra l'altro danno la casa automobilistica a un passo dall'aumento di capitale, e il calo si è ridotto, adesso è intorno al 2,5%. Male anche questa mattina Mediaset, meno 1,8%, prende fiato dopo il rally partito lunedì scorso dalla notizia del ritorno sulla scena politica di Silvio Berlusconi. Tornano insomma le notizie politiche. Dalla chiusura di venerdì a stamattina il titolo aveva guadagnato circa il 10%. Exor, ovviamente collegata a Fiat, cede un punto percentuale. Male anche Telecom Italia quest'oggi, meno 1%, Mediolanum meno 0,93%. Contrastate le banche, la Popolare dell'Emilia Romagna, che ieri aveva guadagnato molto, cede oggi lo 0,49%. Parmalat, che era stata in qualche maniera sfiorata dalle questioni giudiziarie di Lactalis, cede lo 0,28%, Enel meno 0,26%, poi scorrendo un po' il listino, Eni intorno alla parità, alcune banche positive, la migliore, la Popolare di Milano, ancora oggi dopo i rialzi di ieri è in rialzo dell'1,09%, Impregilo più 0,5%, 1,58, la migliore di Asore in più 1,83%. Questa mattina spread in leggero calo, 324 euro sul dollaro 1,30,92. E questo per chiudere la nostra così breve occhiata sui mercati, per tornare in realtà a parlare in parte di questo. Come dicevamo, il tema di oggi è quello del risparmio in tempo di campagna elettorale, come difendere il portafoglio dalla campagna elettorale, che sarà anche la copertina di Plus domani, che trovate in edicola col Sole 24 Ore. Noi abbiamo cercato quest'oggi non di riepilogare il tema in una scheda come di solito facciamo, ma di dare degli stimoli attraverso un montaggio di sonori che ha fatto il nostro Marco Lombardo in redazione. Adesso ve li facciamo sentire. Io ho detto che lo spread è stato un imbroglio. Su uno spread che era andato oltre i 500 punti, si disse che avevamo portato il paese sull'orlo del baratro. E questa è stata una menzogna colossale. Ma tanto ormai siamo quasi al crack, lo spread. Dobbiamo stare molto attenti e anche spazzare via alcuni miti, come quello secondo il quale ciò che un paese fa non avrebbe rilievo per il proprio spread, perché sarebbero solo gli interventi della Banca Centrale Europea. Spero che anche in questo non si trattino i cittadini come più sprovveduti di quanto siano. L'anticipo delle elezioni dovuto alle dimissioni di Monti è visibile, perché si tratta di poco più di un mese. Quindi non c'è assolutamente una ragione vera perché i mercati si debbano e si possano agitare. Di spread non si era mai sentito parlare, si è usato lo spread per cercare di abbattere una maggioranza votata dagli italiani e di mandare a casa un governo facendogli perdere la maggioranza in Parlamento. Penso che siano stupidaggini, francamente. Penso che lo spread sia preoccupante, penso che certamente bisogna discutere con la Germania da amici, da pari a pari, ma in modo amichevole. Un piccolo aneddoto che mi ha raccontato mia figlia ieri sera. Il più piccolo dei suoi tre figli ha visto in un telegiornale che si parlava di spread e ha detto alla mamma: ma spread sono io. Perché all'asilo lo chiamano spread. Le colpe dei nonni ricadono sui nipoti. Allora ringraziamo i colleghi di Chiedo Asilo, perché ovviamente è loro, come sapranno bene gli ascoltatori di Radio 24, questo motivo in sottofondo sul quale abbiamo montato queste voci che riepilogano un po' la settimana. C'è da aggiungere stamattina Grilli, del ministro dell'economia degli Stati Uniti, che ha detto: il voto non tocca l'economia. Napolitano, niente allarmi per il dopo Monti. In effetti, a parte lunedì, poi siamo un po' rientrati nella normalità. Ieri e l'altro ieri c'è stata anche un'importante asta di BOT e BTP che è andata bene. Cosa fare in questi casi? Vendere, tenere? Il consiglio di solito è sempre quello di non farsi prendere dal panico, mi verrebbe da dire please relax, no? Un po' come cosa dici, Lucilla? Sì, quello che noi abbiamo fatto questa settimana è appunto un'inchiesta un po' a tutto tondo, cercando come sempre di dare delle indicazioni molto operative a quelli che le domande che i risparmiatori chiaramente si pongono. Dare delle indicazioni precise non è facile, per cui ci siamo avvalsi del classico esempio di profili tipo e con delle esigenze tipo, e quindi verificando a seconda degli scenari che gli esperti fanno, cioè un rischio politico che potrebbe aggravare di molto, mediamente o poco lo scenario scenario economico che già viviamo, e quindi sulla base di questo, se alcuni investimenti che oggi si hanno già in portafoglio possono ancora essere mantenuti, oppure invece bisogna intervenire e in che modo. Ripercorrere tutti gli esempi è un po' complesso in questo momento. Certamente c'è un giudizio unanime da parte degli esperti, e cioè se gli investimenti vengono fatti seguendo la logica della giusta pianificazione, e quindi invece di investire banalmente in un prodotto così tanto perché ci piace o perché ha magari un rendimento interessante, ecco, non seguire questa logica, ma seguire una logica in cui l'investimento deve rispondere ovviamente alla soddisfazione di un bisogno, di una necessità. Quindi questo è il primo, quindi se avete fatto questa operazione di investimento seguendo questo tipo di tecnica, questo tipo di indicazione, state tranquilli, perché probabilmente va ancora bene l'investimento che avete fatto. La seconda cosa che ci hanno raccontato qual è, e che ed è veramente stata descritta molto bene dai colleghi che hanno fatto la scheda audio, tutta questa montatura politica probabilmente oggi lascia un po' indifferente i mercati, perché l'Italia sempre più è invece collegata economicamente e finanziariamente a quello che accade in Europa, e quindi forse appunto la parolina spread e il fatto che salga o scenda dipende sempre di più da come siamo collegati all'Europa e non tanto o non molto da quello che accade all'interno del nostro paese. Gli esperti che vedo che sono collegati con te in linea probabilmente ci aiutano di più a come dire, dipanare la matassa, a dare delle indicazioni più precise ogni volta che ci sono dei bisogni per un pensionato, un giovane studente, una persona che invece ha grosse disponibilità finanziarie e deve ancora accumulare perché ha dei figli piccoli. Insomma, sono tante le esigenze di risparmio, quindi non si possono dare delle ricette preconfezionate, bisogna agire volta per volta. Ecco, questo sicuramente i dati di ieri che Banca d'Italia ha dato ritraggono un paese in cui la ricchezza diminuisce, ma soprattutto si accentuano i divari. Ecco, quindi abbiamo delle persone tra ricchi e poveri, certo, questi dati ti riferisci? Sì, mi riferisco al fatto che sicuramente la capacità di risparmio si è ridotta moltissimo, e quindi anche gli strumenti a disposizione sono un po' limitati. Cioè, se gli individui hanno una bassa capacità di risparmio, inutile che noi raccontiamo la bella storia della diversificazione. Questo si può fare se si hanno degli ammontari di un certo tipo, ecco. Certo. Quindi quando si danno poi dei suggerimenti di investimento bisogna anche tener conto di quanto risparmio si ha. Ecco. E pare di capire dai dati Banca d'Italia sempre meno. Stefano Mac, è in effetti così, no? Sempre più collegati all'Europa, sia dal punto di vista politico, abbiamo visto le decisioni per quanto riguarda le banche ieri, sia dal punto di vista così dei mercati che guardano un po' più all'Europa che ai fatti interni. Sì, certo, diciamo che la situazione dell'anticipo elettorale di circa 2 mesi non cambia assolutamente niente, non c'è nessun impatto economico, ormai il governo Monti era a fine mandato, quindi le riforme che doveva fare una volta che mettiamo, chiudiamo con la legge di bilancio, non sarebbero state ininfluenti. Quindi dal nostro punto di vista è solo un'anticipazione di una minima volatilità, quella che c'è stata la settimana scorsa, che sennò ci sarebbe stata i primi mesi dell'anno prossimo. Quindi tutti stanno guardando le nostre elezioni, dopodiché ci saranno le elezioni tedesche, quindi erano appuntamenti già in agenda, quindi in realtà l'anticipo non creerà grossi impatti. La sensazione che abbiamo noi è che comunque l'Europa incominci a muoversi in maniera un pochettino differente rispetto a quello che ha fatto nell'ultimo anno e mezzo, soprattutto dopo le elezioni in Francia e dopo il caso Grecia, che è stato il primo paese che è entrato in forte difficoltà e che ha dovuto accettare le imposizioni dell'Europa. Abbiamo visto che queste politiche di forti legate molto ai disavanzi pubblici, quindi di forte penalizzazione di alcuni paesi, non funzionano. Cioè, in Grecia abbiamo visto che nonostante abbiano paradossalmente anche dimezzato le pensioni o abbiano cercato di fare il più possibile per aumentare le entrate a livello finanziario, in realtà la situazione non si è modificata, anzi notevolmente peggiorata. E quindi la sensazione che abbiamo visto negli ultimi mesi, facendo seguito anche al buyback del debito greco che è stato effettuato la settimana scorsa, è quella di un mantenimento del debito, di una riduzione fittizia del debito tramite il buyback e di concentrarsi sull'avanzo primario. Quindi molto probabilmente i sacrifici greci saranno sempre minori, in quanto ci si rende conto che oltre un certo livello non si può andare. Quindi la politica europea è un po' cambiata anche dal punto di vista del qui, nel senso che mentre prima era una parola che in Europa non si poteva utilizzare, mentre nel resto del mondo si è sempre utilizzato, oggi come oggi, a partire dalla manovra di Draghi sulle banche centrali, che ha permesso comunque di creare liquidità nel sistema, per ora solo tra banche, questo qui sistematico internazionale, anche l'Europa è entrata a farne parte. Per cui quando ci sono movimenti di banche centrali che decidono gli andamenti degli asset, perché negli ultimi 2 anni è successo così, fare valutazioni dal punto di vista gestionale diventa difficile. La sensazione che abbiamo noi è che il prossimo anno sarà un anno ancora come questo, cioè in cui in realtà le banche centrali metteranno tantissima liquidità e quindi molto probabilmente gli spread, a meno di shock particolari che in questo momento noi non vediamo neanche in Italia, che potrebbero arrivare dalle elezioni, ma ci sembrano abbastanza poco plausibili, possa continuare. Quindi in realtà il fatto che ci sarà tantissima liquidità potrebbe portare ancora a un miglioramento dell'andamento dei nostri bond in circolazione, circolazione. E la riduzione dello spread. Ecco, ci fermiamo brevemente, torniamo subito dopo a parlarne con Johnson, abbiamo una piccola pausa e poi ancora con voi. Salva Danaio. Bentrovati, bentornati a Salva Danaio. Oggi cerchiamo di capire cosa fare con i nostri risparmi in questo periodo lungo elettorale, già nei toni, insomma, vediamo molto così tempestoso. Tempesta che però la quale siamo un po', come stiamo cercando di capire, stiamo apprendendo anche dai nostri esperti che sono con noi, siamo un po' al riparo, visto che insomma c'è l'Europa alla fine, no? Un po' più di poteri all'Europa e quindi anche i mercati, anche Piazza Affari segue un po' più l'Europa. Massimo Gionso, consigliere delegato di CEFO SIM, quali sono le previsioni per i prossimi mesi? Fa una domanda sicuramente molto difficile, dobbiamo cercare di ragionarci con calma. E intanto volevo un attimino, non dico sminuire quanto ha detto prima la dottoressa Incorvati quando dice che è molto facile fare un asset allocation per i grossi patrimoni e molto meno per i piccoli patrimoni, anche perché il mondo ormai è diventato piccolo e gli strumenti a disposizione per investire nel mondo sono molto simili e alla portata di tutti. Mi spiego un attimo. Per quanto anche CFO SIM sia abbastanza orientata verso patrimoni di una certa rilevanza, la semplicità con cui noi cerchiamo di operare su questi patrimoni fa sì che gli strumenti siano alla portata di tutti. L'importante, almeno secondo la nostra visione, è cercare di delineare a monte uno scenario macro e poi capire come agire di conseguenza. Mi spiego, una volta che cerchiamo di capire cosa succede nel mondo e quindi qui non fermiamoci all'Italia, alla situazione politica italiana o allo spread italiano, ma andiamo a guardare un pochino a 360 gradi quello che succede, quindi capire quali sono le asset class dove si possono intervenire. Se parliamo di azionario o di equity, non esiste solo l'azionario Italia, l'azionario Europa, l'azionario USA, l'azionario Giappone, l'azionario Asia, l'azionario Latino America, ma si tratta anche di capire se intervenire su questi azionari in maniera eggiata, cioè senza incorrere nel rischio cambio del paese di riferimento o meno. Quando parliamo di obbligazionario non ci sono solo i governativi o i BTP, ci sono l'obbligazionario paesi emergenti, obbligazionario corporate, obbligazionario high yield e tutto quello che ne deriva. E di tutto ciò esistono strumenti con quantitative minimi di 1000 euro su qualsiasi di tutte queste asset class e quindi alla portata di tutti, dice, certo, però l'importante è saper selezionare molto bene a monte, avere lo scenario ben chiaro in anticipo e saper utilizzare questi strumenti con grossa selezione e grosso criterio. Io posso capire che un piccolo risparmiatore abbia più difficoltà ad avere accesso a determinate informazioni, ma io sono convinto che da questo punto di vista la legge sia uguale per tutti, gli strumenti sono a disposizione di tutti. Quindi se lei mi chiede oggi però di fare un asset allocation, possiamo parlare tranquillamente, posso dare la mia visione che comunque non si discosta assolutamente da quello che ha detto poco fa il mio collega, anzi condivido pienamente tutto quello che ha detto. Dopodiché, a seconda della tipologia di cliente, di età, di capacità reddituale, ovviamente tutte queste asset possono certo, avere un peso diverso. E da qui su possiamo plus tranquillamente parlarne. Certo, su plus infatti ci sono dei profili specifici, coppia di pensionati, professionisti con figli piccoli, tra l'altro lei, Jones, che ha fatto i profili per queste due categorie, ha partecipato, certo. Poi un dirigente con famiglia, un trentenne informatico. Non possiamo, per la brevità che abbiamo a disposizione di tempo, anche perché ci sono degli ascoltatori a cui vorrei dare la parola, andare nello specifico per ognuno di questi profili. Chiaramente bisogna sempre diversificare, credo che Luci lei intendesse però che magari c'è meno disponibilità di risparmio, questo non lo diciamo noi ma insomma lo dicono i dati. Comunque è interessante vedere i vari punti di vista. Giulio da Milano, qual è il suo di punto di vista? Dunque dottoressa, buongiorno. A lei e ai suoi ospiti. Dunque, il mio problema è questo: io ho lavorato oltre 40 anni, ora ne ho parecchi di anni e ho sempre cercato di mettere da parte la mia liquidazione e qualche risparmio, perché lo so benissimo che nella vecchiaia purtroppo si va incontro alle malattie, giusto? Allora dico, questi risparmi mi serviranno e ho fatto anche bene, perché noi vediamo che oggi la sanità piano piano ci tolgono tutto. Allora io quando li ho investiti in banca ho sempre detto: io non voglio che il mio capitale venga perso, mi accontento delle briciole di interessi, non voglio rischiare purché il mio capitale sia sempre a disposizione. Qual è la domanda, Giulio? La domanda è questa: io ho sempre pensato, però come le dico, io non me ne intendo, se io dovessi, oramai magari un po' tardi, investire in oro, è più sicuro investire quei 4 risparmi che ho messo da parte, investirli in oro, oppure andare in banca e fidarmi dalla persona che mi sta di fronte, che poi mi fa investire non so dove, non so come, e li perdo? Grazie Giulio, abbiamo capito bene. Beh, quello dell'oro è un investimento di cui si parla molto, Lucilla. Sì, sì, noi ne abbiamo fatto la copertina settimana scorsa, quindi se il signor Giulio avesse letto magari, anzi se è interessato, gliela possiamo anche mandare questa inchiesta dove i colleghi hanno fatto uno studio molto approfondito. Certo, l'oro è salito molto, probabilmente continuerà a salire, quindi è un investimento sul quale si può puntare in questo momento. Bisogna sempre fare cautela in che modo, cioè con quale strumento di investimento. Certamente non comprarsi lingotti d'oro, perché questa non è la via suggerita dai più, ma soprattutto, anche per riallacciarmi al discorso che faceva prima Johnson, diversificare, cioè non mettere tutti i risparmi nello stesso strumento, perché appunto questo ci fa da protezione generale. Quindi l'oro va bene, bisogna sempre farsi consigliare quale strumento utile per investire nell'oro, ma non mettere tutti i soldi nello stesso strumento. Stefano Maco, una persona così come un pensionato che ci ha chiamato, Giulio da Milano, poi dipende dallo scenario che avremo davanti nei prossimi mesi di instabilità, di media, di bassa instabilità, speriamo. Cosa dovrebbe fare? Guardi, la sensazione o le richieste che ci vengono dai nostri clienti, e noi siamo un campione abbastanza significativo perché abbiamo quasi 200.000 clienti in Italia, sono cambiati notevolmente negli ultimi 4 anni. E la telefonata di prima ne evidenzia una certa quantità, cioè protezione del capitale, riduzione della volatilità, flussi cedolari, perché molti devono integrare le proprie redditi o la riduzione dei propri redditi da lavoro con dei flussi cedolari sul capitale, scadenze certe e soprattutto diversificazione. Dalla telefonata di prima io sinceramente l'oro l'ascoltatore di prima non lo farei comprare, parliamo di un asset altamente volatile, di difficile valutazione, in quanto se lei guarda l'andamento dell'oro negli ultimi 4 anni è triplicato senza nessuna motivazione reale, in quanto non viene scambiato e non serve per nessun tipo di industria, è solo una congettura tra investitori il prezzo dell'oro, quindi altamente volatile. Suggerimento che daremo noi, ed è quello su cui abbiamo centralizzato gran parte della nostra raccolta nell'ultimo anno, è quello di sottoscrivere un prodotto obbligazionario, un fondo di investimento obbligazionario altamente diversificato, in modo da ridurre al minimo il rischio emittente e con un flusso cedolare certo. Quello che diceva prima Lucilla, in realtà è uno strumento molto democratico e che è accessibile a tutto, come il fondo di investimento oggi come oggi viene molto rivalutato. Lo vediamo noi che siamo dei professionisti, gestiamo fondi di investimento da anni, oggi come oggi uno strumento che ti permette un'altissima diversificazione con un investimento minimo di 1.500 euro è uno strumento alla portata di tutti, che permette di ridurre in maniera sostanziale il rischio controparte e il rischio di concentrazione, che sono i due rischi che noi riteniamo in questo momento siano di più importanti da evitare sul mercato. Johnson, al nostro amico Giulio che ci chiamava, appunto in questo caso una persona anziana che ha dei risparmi da parte, da quello che capiamo non molti, ma insomma che vuole difenderli, che consiglio potremmo dare? Ma intanto potrei dire che la cosa, potremmo dire, divertente è che le aspettative del pensionato o dell'imprenditore con cui abbiamo molto a che fare noi nella nostra FIM ormai è, potremmo dire, coincidente. Entrambi ci chiedono una sola cosa: non perdere dei soldi. Il pensionato perché ha delle aspettative di vita di un certo tipo, l'imprenditore perché dice: il mio rischio mercato ce l'ho già nella mia azienda, con i miei risparmi non voglio perdere soldi. Quindi il concetto è esattamente identico. Per adesso non posso che sposare quello che hanno detto chi mi ha preceduto. Parliamo prima dell'oro. L'oro è sicuramente un asset class che va seguita esattamente come tutte le commodities relative ai metalli preziosi, che potrebbe essere utilizzata in un portafoglio variegato anche come misura, se vogliamo dire, antinflazionistica. Quindi una piccola percentuale in portafoglio di commodities in metalli preziosi, quindi diciamo oro, argento, fa parte della nostra view positiva, e quindi noi le abbiamo in portafoglio, no, ovviamente sì, in percentuali che non superano tipo un 2, al massimo 3% del portafoglio. Quindi investire pesantemente in oro, la mia risposta è assolutamente negativa. Considerarlo come una delle asset del portafoglio, assolutamente sì, però con una percentuale come quella che ho detto un attimo fa. Sì, siccome ci chiedono gli ascoltatori, giustamente anche via sms, di parlare un po' più di italiano, cerchiamo magari tutti quanti, visto che possiamo farlo, di tradurre i termini, così è anche più facile per chi ci ascolta. Io ho Giuseppe in linea da Ancona, le chiedo di fare la domanda, poi magari ci dobbiamo fermare un attimo per i consigli per il traffico e le risponderemo subito dopo. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno a lei e a tutta la trasmissione. Guardi, io il problema mio è lo stesso del signore che mi ha preceduto. Ho lavorato, ho 50 anni, ne ho 72, ho un piccolo risparmio in banca, e siccome la banca, io mi sono da una vita, ho fatto l'artigiano, mi sono affidato sempre, sono stato sempre in quella banca. E allora gli ho detto sempre a quella ragazza, la signora lì che mi... sì, è lo sportello, sì. Sì, che ci trattavamo, ma no, gli ho detto sempre lo stesso discorso che ha detto quel signore lì: dammi la roba sicura, non lei, mi interessa... Quel... Giuseppe, scusi se la interrompo, lei ha un conto corrente praticamente? No, io adesso non ho più il conto corrente, mi ha fatto un libretto. Un libretto bancario. Bancario, d'accordo. Bancario, mi ha detto che è coperto dalla Banca d'Italia, male che vada la banca, diciamo, è coperta da... Certo. Io ho un libretto a nome mio e di mia moglie, quel po' del risparmio che abbiamo. Certo, vuole capire insomma se è effettivamente così o se può fare qualcos'altro. Le rispondiamo tra poco, abbia pazienza, perché adesso diamo i consigli per chi è in viaggio, ovviamente ancora più importanti in questo momento di neve. Salva Danaio. Bentornati a Selva Danaio, oggi parliamo di risparmio con l'aiuto della collega del Sole 24 Ore Lucilla Incorvati, con alcuni ospiti che, ai quali stiamo girando le domande degli ascoltatori. Stefano Mac, ha sentito quello che diceva l'ascoltatore? Aggiungerei anche, visto per allargare un po' il tema, dal libretto bancario anche magari ai BTP, cosa fare in questo momento, comprare o vendere, ci chiedevamo prima parlando fra noi. Ma sulla la domanda dell'ascoltatore, insomma, mi sembra che la posizione che lui ha sempre tenuto in banca si possa mantenere. Mi sembra che parliamo di quote di risparmio abbastanza esigue, se ho ben capito, quindi garantite comunque dalla Banca d'Italia, esatto. Sui BTP la sensazione che abbiamo noi è che la chiusura di spread, come dicevo prima, potrà aumentare e che quindi le durate finanziarie inferiori a 2 anni sono in questo momento probabilmente da ridurre sul mercato e aumentare leggermente la durata finanziaria intorno ai 4 anni. Quindi chiunque abbia delle obbligazioni con durata finanziaria o con vita residua inferiore ai 24 mesi dovrebbe vendere sul mercato e allungare leggermente la durata finanziaria. Massimo Gionso, anche per lei questa domanda, alla quale aggiungerei anche una mia curiosità sui conti deposito, che sono andati molto bene, e a questo punto vorrei capire, insomma, anche vedo dagli SMS che c'è un interesse dagli ascoltatori, come orientarsi per il futuro. Partiamo dall'ascoltatore che mi ha dato l'idea di essere una persona non più giovanissima con dei risparmi su un libretto di deposito di risparmio, e quindi il paragone, qualsiasi confronto con un investimento alternativo deve confrontarsi con un rischio zero, e quindi non è che ci sia molto da dire da questo punto di vista. Quindi l'unica alternativa che potrebbe essere portata a questo ascoltatore è dire: quanto mi rende questo libretto? Quanto mi rende un governativo italiano di una scadenza non troppo lunga, e prendere lo strumento che mi rende di più. Concordo pienamente con quanto ha detto il collega un attimo fa, che la curva forse che ha il maggior rendimento contro il rischio è forse la curva a 4-5 anni. Un BTP a 5 anni rende mediamente un 3,4-3,5%, che potrebbe essere veramente l'alternativa al libretto della persona. Se parliamo invece di conti deposito, non dimentichiamo che normalmente questi conti deposito hanno dei vincoli e quindi garantiscono dei tassi di interesse solo nel momento in cui si mantiene l'investimento fino a scadenza. A noi non piace molto parlare di questi conti deposito perché ci piace avere la liquidità immediata, il cash, tanto per intenderci. E quindi è vero che girano dei conti deposito con tassi lordi anche del 4-4,5% su base annua, ma solo tenendoli vincolati tutto l'anno. Quindi io personalmente preferisco un tasso di interesse anche leggermente più basso, ma avere la mia assoluta libertà di movimento. Sì, in un momento in cui in effetti magari si può aver bisogno di liquidità all'improvviso, comunque ci sono magari delle difficoltà, e se, per non essere nel panico e non incassare poi, no? Lucilla, tu sì, segnalavi questa tranquillità senza costi. Sì, ecco, una cosa sulla quale noi ci siamo molto soffermati è appunto questo, cioè in un momento di difficoltà in cui ci si chiede cosa fare, cambiare, quando si decide per uno strumento, ebbene, se ne accennava anche prima poco fa, ad alcuni strumenti che più di altri ci danno questa possibilità, quella di mantenersi su delle soluzioni flessibili in cui eventualmente l'uscita non è gravata da costi. Quindi sicuramente preferire un fondo comune di investimento, un ETF, ha dei prodotti più vincolati, come sono appunto i conti di deposito, che è vero possono rendere il 4, il 5, quello che l'è, però ad un patto che è quello di stare su quell'investimento per almeno 2 o 3 anni, oppure i prodotti assicurativi, mi riferisco alle polizze vita in particolare, di tipo finanziario, che spesso anche qui è vero possono dare dei rendimenti, ma l'uscita da questi prodotti anche solo dopo un anno può essere molto molto costosa. Quindi mantenere sempre un occhio di riguardo per vincoli e costi. Giustamente. Simone da Prato, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno, buongiorno e buongiorno ai suoi ospiti. Ascolta, le spiego la mia posizione. Praticamente io sono un professionista con una propensione a rischio, diciamo, discretamente alta. ho comprato nel primo tranche di BTP Italia una buona parte della mia liquidità, più ho fatto due investimenti su due immobili che ho messo a reddito, avrei una liquidità un pochino più leggera e non saprei se smobilizzare i BTP Italia per andare magari su un investimento diciamo un po' più rischioso però più alto reddito, ecco. Grazie Simone. Stefano Mac. Ma dal nostro punto di vista l'investimento di BTP Italia rimane ancora attraente in quanto incorporano delle ipotesi di inflazione quasi a zero, quindi in ipotesi in cui possa esserci un piccolo gap di inflazione nei prossimi anni, i rendimenti di questi titoli rimangono ancora molto interessanti. Altro è chiedersi se cambiare il profilo di rischio del prodotto, nel senso che io non andrei a vendere BTP Italia per comprare delle altre obbligazioni. Se invece intende magari avvicinarsi più a alcuni mercati molto più sottovalutati, come possono essere i mercati azionari, allora può darsi che oggi come oggi un minimo investimento o iniziare a guardare i mercati azionari internazionali a questi livelli possa avere senso. Massimo Johnson, anche a lei giro la domanda dell'ascoltatore. Pronto? Sente? Sì, la sento. Okay, sembrava fosse caduta lei. No, non condivido quello che ha detto il collega e provo ad aggiungere qualcosina di più. Ci parametriamo in questo momento su un BTP, se ho ben capito, BTP Italia e quindi legato anche all'inflazione, che è uno degli strumenti più belli degli ultimi due mesi. Penso che qualunque gestore abbia sottoscritto questo strumento, che a mio parere è ancora sottovalutato e quindi può avere ancora strada da fare. Cosa può essere l'alternativa a questo strumento? Ovviamente si può andare, sempre parlando di mercato obbligazionario, o allargare lo scenario un pochino più agli inflation link, cioè in generale agli strumenti obbligazionari legati all'inflazione, allora non ci focalizziamo su quello italiano, ma allora andiamo a cercare qualche prodotto. Se no l'altra soluzione velocemente? O se no velocemente uno potrebbe guardare una via di mezzo tra l'obbligazionario e l'equity e quindi guardare un attimino all'obbligazionario convertibile per ampliare un pochino il concetto di rischio, oppure anche l'obbligazionario paesi emergenti, cioè o governativi o corporate di paesi emergenti. Grazie anche per essere stati con noi, anche a Lucilla Incorvati del Sole 24 Ore, a Marco Lombardo in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, Salva Danaio, Deborah Rosciani tornano lunedì.